Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo nella seconda ora del rapporto presentato oggi dal Centro Studi Confindustria, il rapporto sugli scenari industriali. Vi dico subito che è un rapporto in cui emerge una distruzione del potenziale produttivo dell'Italia, cioè quello che noi possiamo produrre ogni anno, del 15% da quando è iniziata la crisi, con una perdita di imprese che è pari in media a 40 imprese che chiudono ogni giorno. Sono 540.000 posti di lavoro persi e parliamo solo di imprese manifatturiere, cioè chi produce beni, manufatti, non parliamo di imprese dei servizi, né di imprese artigiane, né di imprese del mondo del commercio, con massimo rispetto, ne parliamo spesso. In questo caso la fotografia è solo sulle imprese industriali, in senso di manifatturiere. Dicevo, chiuse 55.000 imprese manifatturiere tra il 2009 e il 2012, quindi 40 imprese manifatturiere spariscono ogni giorno, senso massimo anche quelle non manifatturiere, auguri. Ancora, per quello che riguarda il rapporto con le banche, l'attacco è diretto, sono 50 miliardi di euro in meno dati a aprile rispetto al mondo delle imprese rispetto a un anno prima. E oggi Standard & Poor's, quindi non la Confindustria, fa un calcolo e nota come nel 2012 le banche abbiano tagliato alle imprese italiane 44 miliardi di finanziamento. Oggi il ministro Saccomanni dice le attuali condizioni di accesso al credito da parte di famiglie e imprese non sono facili, ciò è dovuto anche al quadro macroeconomico, all'andamento congiunturale, che ha avuto un impatto negativo sulla domanda di credito e ha peggiorato la percezione del rischio. In realtà, diciamolo tutti, io capisco che il ministro Saccomanni fino all'altro ieri fosse il governatore della Banca d'Italia, però qui c'è sicuramente un problema congiunturale, le imprese producono meno, fatturano meno, chiedono meno soldi, ma noi abbiamo continuamente casi di imprese sane che hanno difficoltà sulle linee di credito, di banche che chiedono di rientrare. E poi diciamola tutta, ministro Saccomanni, perché anche il governatore, chi ha preso il suo posto, mi riferisco al governatore Visco, ne ha accennato lo scorso giovedì. Qui c'è un problema di banche che non prestano anche quando potrebbero. Nessuno vuole che le banche prestino i soldi a rischio, perché sono i soldi dei risparmiatori. Però vedere quello che è il surplus di depositi ogni sera alla Banca Centrale Europea, perché preferisci mettere alla Banca Centrale Europea i soldi, riprenditi la mattina dopo, tant'è che Mario Draghi ha detto se continuate così a prendere i soldi che vi ho prestato, traduco in maniera un po' semplicistica, per ridarmeli la sera e riprendervi la mattina, io vi farò pagare questi depositi, perché non sono, diciamo, una cassetta di sicurezza, sono la Banca Centrale Europea. E se continuiamo a vedere che le banche tra di loro non si prestano soldi, quindi il mercato interbancario continua a essere vischiosissimo, beh, non si può dare la colpa alle imprese. Allora qui bisogna prendere ogni tanto il toro per le corna, trovare un modo in cui le banche, con una sana e prudente gestione, tornino a prestare soldi alle imprese e si assumono anche qualche rischio. Io capisco che per sistemare i bilanci è meglio comprare un BOT, un BTP, un corporate bond, che non prestare alle imprese con più rischi, però attenzione, no, su questo. Se no, diciamola tutta, diciamo il mondo bancario in questo momento ha sotto il tappeto più polvere di quanto non sembri, e a questo punto non possiamo permetterci di prestare come prima, perché dobbiamo ancora leccarci le ferite e ripianare molte perdite che abbiamo realizzato con investimenti diciamo che adesso sono in perdita. Mi riferisco ai derivati, ma non solo. Però facciamo chiarezza, se no continuiamo ad andare con due muri contrapposti che non si parlano: le imprese che hanno bisogno di liquidità, le banche che dicono a noi la liquidità non viene chiesta. Non mi sembra che sia così, e soprattutto 50 miliardi di euro in meno rispetto a un anno fa è tanta roba, ragazzi, sono quasi 4 punti percentuali di PIL, sono due manovre e mezzo finanziarie in meno erogati alle imprese. Okay. E devo dire che i messaggi, o li abbiamo solo noi gli imprenditori che hanno difficoltà con le banche, perché i messaggi che arrivano qua al 349-238-6666 sono, insomma, tutti dello stesso tenore. Adesso scrive un ascoltatore: ora sono andato in banca ieri per fare un mutuo per acquistare i muri del mio ristorante, mi hanno proposto un tasso 4% più l'1%, ho rinunciato e sono cliente da 20 anni. Ok, allora bisogna capire, oltre che i prestiti, anche che tassi proponi, perché è facile dire poi l'imprenditore non li vuole. Certo, bisogna vedere cosa gli hai proposto, Allora non, scrive un bancario: non stiamo dando tutta la colpa alle banche, ma ci mancherebbe, ho fatto una premessa su tutti gli elementi di sistema per cui le banche non devono uscire dall'alveo della sana e prudente gestione. Lo hanno fatto nel passato, e non certo per prestare soldi agli imprenditori, ma per usare strumenti derivati, il caso più eclatante del Monte dei Paschi, speriamo che sia l'unico. Ancora, per quello che riguarda il... e quindi non ce la prendiamo con i banchieri. C'è chi mi accusa e dice che ieri ho liquidato il Bilderberg Group come roba da complottisti. È un puro esercizio di superficialità, si informi meglio. Beh, chiaramente lei conosce il Bilderberg Group dall'interno e quindi mi dà questo consiglio. Io ho solo detto che, per carità, le lobby esistono, le abbiamo parlato mille volte, sarà una lobby anche quella. In America sono legali, sono regolamentate, sarà una lobby anche quella, e non ho dubbi. Sto solo dicendo che immaginare che la finanza e il capitalismo mondiale sia guidato da dei grandi vecchi stride con quello che è successo dal 2008, in cui Lehman Brothers è stata per aria, le banche americane, se non venivano salvate dallo Stato, saltavano per aria tutte, AIG e compagnia cantante. Ora vorrei capire quale grande vecchio decide di far scoppiare una crisi finanziaria in quel modo, se è veramente un grande vecchio, perché visto così sembra un grande vecchio un po' rincoglionito, se dobbiamo dirla tutta. Allora, attenzione al complottismo in questo senso. Non ho mai detto che il Bilderberg e questa riunione tra banchieri, amministratori delegati e quant'altro non sia una roba da lobby, così come allora anche Cernobbio, visto che riunisce tutti i vertici delle banche, delle imprese e della finanza, il workshop Ambrosetti. Certo, si incontrano top managers, Davos pure, che abbiamo spesso criticato, si incontrano per discutere di scenari e faranno anche i loro affari. L'importante è che vengano fatti nella massima legalità. Immaginare che questo gestisca le sorti magnifiche e progressive della finanza, del capitalismo mondiale, mi sembra un po' una cosa da complottisti, da chi legge troppi romanzi di fantasia. Detto ciò, e rispondo anche all'ultimo sms, se non vado più avanti, è verissimo che le banche di credito cooperativo, le casse di risparmio più legate sul territorio, i crediti artigiani e quant'altro hanno un rapporto diverso, però non è che posso distinguere ogni volta. E dopodiché non possiamo immaginare che tutta la ripresa del credito alle imprese in questo paese avvenga con le BCC e non coinvolga i grandi gruppi bancari di questo paese, con massimo rispetto per le BCC e per il loro ruolo e il ruolo che hanno svolto soprattutto nel 2009, quando le grandi banche invece erano paralizzate. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Parleremo quindi del rapporto di Confindustria, del Centro Studi, ma anche del Giappone. Oggi un'altra sberla sul Nikkei, meno 3,83% nel giorno in cui veniva varata l'ABE Economics. E parleremo dei dazi ai pannelli fotovoltaici cinesi, perché la risposta cinese è stata durissima, nel senso che ha detto: bene, voi ci aumentate i dazi sulle importazioni di pannelli fotovoltaici cinesi, noi a questo punto vi spariamo i dazi sul vino. L'agenzia Nuova Cina aveva già definito la decisione di ieri dell'Unione Europea come punitiva e che sarebbero arrivate risposte non amichevoli da parte della Cina. Ebbene, oggi la Cina ha annunciato l'apertura di un'indagine antidumping nei confronti del vino importato dall'Unione Europea. Ora, per essere corretti, poi cercheremo di capire, perché dumping vuol dire quando tu produci sotto i costi di produzione. Dubito che i francesi, gli italiani, i cileni e gli australiani vendano il vino sotto i costi di produzione, ma soprattutto rispetto a che cosa? Rispetto al vino cinese? No, chiedo con massimo rispetto per il vino cinese, che non so manco dove venga prodotto. Il dumping tecnicamente è quando tu collochi su un mercato un bene identico a un altro prodotto in quel mercato sotto i costi di produzione, quindi fai concorrenza sleale sostanzialmente. Ok, questo è il dumping. Vorrebbe dire che noi vendiamo il vino in Cina a un prezzo più basso del costo di produzione, facendo concorrenza sleale al vino cinese. Vorrei sapere dov'è il Bordeaux o il Brunello, va bene? Notizie in breve. al di là di questi temi che tratteremo, partiamo subito dalle borse. Meno 0,80% Milano, peggio e non poco fa Parigi, meno 1,70%, Francoforte meno 1%, l'America meno 0,80%, Londra è la peggiore in Europa, tra quelle maggiori capitalizzazione perde il 2%. Tra i titoli, la Popolare di Milano meno 2,80%, Popolare Emilia Romagna meno 2,60%, Di Assori meno 2,20% e Mediolanum meno 2% anch'essa, Luxottica meno 2%, Banco Popolare meno 1,80%, Snam meno 1,70%, Exor meno 1,5%, come Eni e Parmalat. L'1,40% lo perde Terna ma anche Enel, l'1,30% Intesa San Paolo ma anche Saipem. Monte dei Paschi più 3,77%, Ansaldo più 1,40%, Fiat più 1,30%, A2A più 0,90%, Finmeccanica più 0,70%, Buzzi Unicem più 0,60%, Atlantia più 0,60% anch'essa. La vicenda, ci spostiamo in Italia, la vicenda dell'Indesit, anzi fatemi dire una cosa ancora sull'estero, dopo parleremo di Tokyo. Per quello che riguarda invece il settimanale tedesco Die Zeit, la Banca Centrale Europea è al lavoro su un piano che prevede il risanamento radicale delle banche dell'area euro e dall'autunno prossimo i banchieri centrali con le autorità di controllo esamineranno i bilanci dei più importanti istituti bancari europei in modo da vedere se una volta per tutte riusciamo a capire come sono messi i bilanci delle banche dell'area euro, non solo di quelle italiane. E sempre di Zaid dice però attenzione, ci sono Francia e Italia che resistono alla Banca Centrale Europea alla richiesta di lasciar controllare le loro banche da periti esterni. Allora, sì, non so, non conosco se la resistenza francese e italiana, faccio solo notare che in Germania c'è stato un caso come quello di Commerzbank in cui il salvataggio di Commerzbank, una delle principali banche tedesche, è tutto stato gestito all'interno della Repubblica Federale Tedesca senza nessun aiuto, anzi senza nessuna richiesta di aiuto esterno, ma con grandi aiuti dello Stato a Commerzbank. E faccio notare al Die Zeit che mi piacerebbe anche una bella inchiesta, ma sono sicuro che la faranno, sul come stanno messe le Landesbank, le casse di risparmio locali tedesche, perché mi giunge voce che dopo la vicenda spagnola, e quindi banchiale, casse di risparmio locali, anche le Landesbank tedesche non siano proprio con i bilanci così perfetti, forse per il rapporto molto stretto che hanno col potere politico dei Land, delle regioni tedesche, no? Ma mi risulta che la trasparenza, i ratio patrimoniali, insomma, tutti i vari criteri, andiamo a vedere come hanno preso i soldi le banche locali tedesche e anche come stanno rientrando da questi crediti, giusto per appunto andare a investigare tutto, no? Dicevo, andiamo all'Italia invece, dove sulla vicenda Indesit, i lavoratori dell'Indesit Company di Albacina, provincia di Ancona, hanno manifestato sotto la direzione dell'azienda a Fabriano, altri disagi anche in altri stabilimenti dell'Indesit, dopo il piano da 1425 esuberi annunciato ieri dalla società per i 3 poli produttivi di Fabriano, Comunanza e Caserta. Lo stesso hanno fatto anche i lavoratori di Melano, che si erano riuniti in assemblea. Devo dire che poi Indesit ieri ci ha tenuto a precisare che in realtà non sono tutti esuberi, stanno cercando di arrivare a una solidarietà aziendale, però il piano viene giudicato comunque inaccettabile dai sindacati, come ha spiegato il responsabile del settore elettrodomestici della UIL, Gianluca Ficco, al microfono della nostra Anna Marino. Siamo qui in presidio nello spazio antistante esterno, la sede principale dell'Indesit di Fabriano, quindi in provincia di Ancona naturalmente. Quanti siete? È difficile dire un numero preciso perché lo spazio è molto largo, ma saremo qualche centinaia. Il piano prevede degli esuberi, ma è stato assicurato no ai licenziamenti. Siamo colpiti da due aspetti di questo piano. Il primo è un aspetto per così dire quantitativo, cioè una mole di esuberi è davvero pesantissima, tanto più se si pensa che 1250 dei 1425 esuberi gravano in realtà esclusivamente sulle fabbriche, che attualmente danno lavoro a 2400 persone, quindi il loro peso specifico è estremamente alto, perché è vero che in le città in Italia circa 4000 dipendenti, ma ripeto, solo 2004 lavorano nelle fabbriche, e quindi si tratta in realtà di un esubero che sulle fabbriche pesa per più del 50%. Naturalmente è uno spiraglio positivo, è una situazione che in linea di principio Indesit non intende licenziare, però anche da questo punto di vista c'è bisogno che il piano industriale sia credibile. Gli ammortizzatori sociali possono attutire, rinviare un problema, ma non sono infiniti né nella quantità né nei tempi, che essi poi possono servire a tenere le fabbriche in Italia, a tenere il cuore della produzione in Italia, a mantenere l'industria in Italia. Turchi, cinesi, tedeschi, coreani stanno anche nel settore degli elettrodomestici sostenendo le loro grandi aziende, i loro grandi campioni nazionali. Noi siamo l'unico grande paese industriale che invece sta abbandonando l'industria al suo destino in nome di un fatalismo mercatista che sinceramente sta producendo solo disastri da troppi anni. In bocca al lupo ai lavoratori dell'Indesit, ci mancherebbe. Una buona notizia dalle imprese arriva invece dalla Luxottica, e ne parleremo se ce la facciamo domani. Intanto vi do la notizia, perché dopo il carrello della spesa e i buoni per i libri di scuola dei bambini e dei dipendenti, Luxottica ha rinnovato l'accordo sindacale sul welfare aziendale degli 8.000 addetti italiani su 70.000 addetti che ha Luxottica nel mondo. E ha ampliato rispetto all'intesa del 2009 le iniziative, oltre a quelle già citate, quindi buoni per il carrello della spesa e buoni per i libri dei figli, microcredito per gli impiegati e operai in difficoltà, finanziamento ai soggiorni all'estero per i figli presso famiglie di altri dipendenti della società. Si so che alcuni sorrideranno, però nel giorno in cui scopriamo che a Milano per risparmiare sul riscaldamento le scuole chiudono il sabato, ora uno può pensarla come vuole, io da genitore posso essere anche contento che le scuole chiudono il sabato, però vorrei che fosse parte di un piano didattico, non per risparmiare sul riscaldamento. Mancano i soldi per il riscaldamento, da ieri c'è la circolare spalmare l'orario scolastico su 5 giorni settimanali in tutte le 160 scuole di città e provincia, nessun taglio di ore, più ore durante il resto della settimana. Si risparmieranno almeno 2 milioni di euro per riscaldamento e luce, 34 milioni in bilancio quest'anno contro i 37 milioni a Milano per riscaldamento e luce. Vorrà dire che altre famiglie avranno più tempo per i weekend, il problema poi è che mancano i soldi per i weekend e ci si morde la coda. Dicevo, in questo panorama ben venga l'iniziativa di Luxottica. Adesso invece devo parlare di noi per due minuti, di noi come mondo dell'editoria, poi arriviamo alla Cina, ai dazi sui pannelli fotovoltaici e alla ritorsione sul vino, perché oggi c'è stato lo studio della FIEG, Federazione Internazionale Editori di Giornali. Insomma, il 2012 è stato il peggior anno dal 1992. Praticamente abbiamo avuto in 5 anni una perdita nei giornali italiani di 1 milione di copie dei quotidiani, meno 6,6% come vendite, e in 5 anni fa meno 22%. Diminuiscono per la prima volta anche i lettori. Allora lì bisognerebbe capire quanta parte è stata travasata sulla lettura elettronica, iPad. Temo però che su 1 milione non riusciamo ad avere 1 milione di lettori in meno, 1 milione di copie in meno, scusate, 1 milione di lettori, non siano tutte poi ascrivibili all'iPad. La crisi è violenta, occorre un cambio radicale, subito misure, ha chiesto il presidente della FIEG Giulio Anselmi, la politica è latitante, occorrono subito misure, anche perché il crollo della pubblicità è l'elemento, come ricordavo, peggiore, meno. Pensate che l'anno scorso si è scesi per la prima volta sotto gli 8 miliardi di euro di pubblicità, meno 14% rispetto al 2011, che era già un anno negativo. E nel 2013 va ancora peggio sulla pubblicità, che riguarda tutti in questo caso, riguarda i giornali, ma le televisioni, le radio, tutti. coinvolti. Devo dire che sulle copie invece un po' di autocritica sugli ascolti, sulle copie possiamo farla anche noi giornalisti, forse bisogna fare giornali più leggibili, più interessanti, quello che vogliamo, ma quando tu hai una perdita, quindi nessun tipo di autosoluzione, ma quando tu hai una perdita del 14% nella pubblicità e che è del 20% da inizio della crisi, puoi fare le copie che vuoi, ti manca un quinto dei tuoi ricavi, detto in maniera molto brutale. Adesso andiamo col meteo e la pubblicità, poi parliamo di dazi cinesi. C'è qualcuno che mi ha scritto: ma guardi che vino la Cina lo produce, chiedo venia, non l'avevo mai bevuto e aspetterò ancora un po' sul vino, non ce l'ho con i cinesi, ma sul vino fatemi essere nazionalista. Meteo, pubblicità e poi di nuovo in diretta 349-238-6666 e la pagina di Focus Economia su Facebook. Focus Economia. Nice again. 17:35 minuti. Mai avrei immaginato nella mia vita, pur occupandomi come passione di vino, di dovermi occupare dei dazi posti o delle ipotizzati con l'accusa di dumping al vino europeo, perché in realtà la ritorsione contro l'Europa, quindi con buona pace dei cileni e degli australiani, dei dazi che la Cina vorrebbe metterci come chiara ritorsione per quello che è successo ieri. Allora, molti ascoltatori stanno scrivendo che il vino cinese esiste, lo so, scusatemi, io ho sempre bevuto in Cina vino italiano, anche perché mi piace, dovremmo farlo tutti, insomma, aumentare il nostro export, un po' autarchico, ma chi se ne frega. Si chiama Great Wall e fa schifo, non lo beva, grazie. Dynasty Cantine, prodotto nella penisola dello Shandong, l'eccellenza cinese, perfetto. Poi c'è uno che mi fa impazzire. Dov'è? Nel 2011 a Shanghai ho potuto assaggiare il miglior vino bianco made in China a casa di una senatrice, faceva cagare. Adesso però, per favore, già ho un problema aperto con la Germania, che insomma quando si muove fa paura. Se mi fate aprire anche un fronte con la Cina, qua non reggiamo il colpo, perché insomma poi vi beccate il conduttore cinese, sicuramente migliore, sicuramente costa meno, sicuramente è anche più preciso. Enrico Brivio del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Enrico, tu sei stato per anni corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, ti sei occupato recentemente anche del tema dei dazi. Che cosa è successo ieri sui pannelli fotovoltaici e come dobbiamo leggere l'iniziativa della Cina di oggi, che ha aperto un'indagine anti-dumping perché dice che il vino europeo è aiutato sostanzialmente dagli stati, cioè riceve delle sovvenzioni di stato illegali, se ne è accorto solo ora e stranamente solo il giorno dopo che abbiamo aumentato i dazi sui pannelli fotovoltaici cinesi. Prego. Ma diciamo che la Cina ha sovvenzionato pesantemente la green economy e soprattutto i pannelli solari. Non a caso già dei dazi esistono negli Stati Uniti che vanno in media dal 24 al 36%, perché è chiaro che i cinesi hanno inondato il mercato in una tecnologia molto importante e con grande futuro di questi pannelli sotto costo finanziati dal governo e quindi in palese violazione poi della regola del WTO, del commercio internazionale, alla quale la Cina ha aderito. E quindi da parte europea c'è stata questa contromisura, già presa appunto dagli Stati Uniti, di imporre dei dazi. Si è fatto però un gesto di apertura, si è detto: sebbene i pannelli solari cinesi, secondo le analisi comunitarie, dovrebbero costare l'88% in più se fossero l'88%, non poco, si è deciso di imporre un dazio solo per un periodo dei primi due mesi di l'11,8% e poi da agosto farlo scattare al 47,6% per dare una finestra di due mesi per negoziare con i cinesi. Quindi questa decisione presa ieri, con un'Europa spaccata tra l'altro, perché mentre francesi e italiani erano molto favorevoli, i tedeschi un po' nicchiavano. Strano, perché loro producono però pannelli solari. Sì, sì, però probabilmente ci sono anche delle coproduzioni. Delle componenti tedesco-cinesi. Poi c'è stata un'azienda tedesca che è stata comprata dai coreani, per cui i tedeschi hanno anche questo incrocio con i cinesi. E non a caso, appunto, i cinesi oggi hanno fatto questo annuncio che va a colpire proprio dei prodotti francesi e italiani. Che i sono francesi, quei paesi... stanno, come diceva Paolo Conte nella canzone che chiama Bartali, con le palle che ancora gli girano, perché hanno annunciato delle misure. Devo dire che la Francia in questo, a mio avviso, è encomiabile. Quando deve difendere un settore produttivo, non ce n'è per nessuno. Se poi il settore agricolo non ce n'è proprio per nessuno, loro si mettono in moto. E se ho ben visto, Hollande ha chiesto già un vertice, no? Esattamente, Hollande è già partito a testa bassa, ha chiesto un vertice. Testa bassa, Hollande. Vabbè. A testa alta o bassa che sia, e ha chiesto questo vertice urgente. Barroso ha detto di no, per diplomazia ha detto possiamo fare un vertice sui temi commerciali in generale, non possiamo farlo su una sola controversia. Certo. Però... Allora fammi fare una nota di servizio. Devo chiedere Venia se ho sbagliato, non me ne sono accorto parlando, scusatemi, ogni tanto capita, se ho detto che Saccomanni era governatore, chiaramente era direttore generale della Banca d'Italia, me lo fa notare Vittorio da Milano, e poi ho detto, parlando della provincia di Milano, che chiaramente ha la gestione delle spese per il riscaldamento delle scuole, ho detto a un certo punto comune, mi scusi, mi faccia passare però quando ho detto iPad invece di tablet, Vittorio, non sia così pignolo, delle volte no, si usano i termini per dire... Per intendere, comunque, per carità, tablet, non iPad, non abbiamo nessun accordo particolare con l'Apple, ci mancherebbe. Detto ciò, ma è giusto rettificare quando si sbaglia, dovrebbero farlo tutti i miei colleghi. Vorrei capire esattamente quanto stia in piedi questa accusa, e lo vorrei fare con due persone. Da un lato con il presidente di... Federvini, presidente Gancia, mi sente? Buonasera. Buonasera a tutti. Perché immagino che anche voi siate un po' preoccupati su questo, per quanto le cifre, lo dico subito, dell'export italiano di vino in Cina, purtroppo non sono ancora così alte, presidente Lamberto Vallarino Gancia, sono 70 milioni di euro. Ma vorrei anche ringraziare, perché in realtà ci stava ascoltando, ci ha scritto e l'abbiamo ospitato. Funzionasse sempre così il programma, lavorerei molto di meno, grazie a chi esporta da sempre in Cina e quote non importanti. Stiamo cercando di riprendere il collegamento. Intanto, presidente Gancia, su questo, nonostante i valori siano 70 milioni, qual è la vostra preoccupazione? Ma guarda, prima di tutto bisogna chiarire il concetto che la Cina non ha ancora aperto ufficialmente una procedura, ma ha accettato formalmente una denuncia presentata lo scorso agosto dall'Associazione Nazionale dei Produttori di Vino, depositata contro i vini europei che potevano avere potenzialmente aiuti alla promozione. Allora, il governo ha 60 giorni per accettare questa denuncia e comunque entro il prossimo 6 agosto. Oltre a ciò c'è chiaramente la Commissione Europea con un incontro per il governo di Pechino il prossimo 13 giugno, quindi prima del 13 giugno noi siamo abbastanza tranquilli che non possa essere attaccato in nessun modo europeo, perché qui si tratta di tutti i vini europei. Tutti i vini europei, sì. Non solo il vino italiano, eccetera. No, infatti anche i francesi. Noi eravamo già a corrente di questo, sia come comitato vendi, che ho presieduto entrambi, siamo già pronti per agire e dare tutto il supporto alla comunità europea, perché qui non è solo l'Italia che si muove e ha più potere o meno della Francia, eccetera, ma è proprio la comunità europea. Esatto, che si deve muovere su questo. Europea. Mi dica una cosa, prego. In questo momento, essendoci già aspetti burocratici che vanno da norme molto complesse, certificazione, controllo degli installati, registrazione obbligatoria, sono tutte barriere alla facilità di entrata dei vini e delle bevande europee in Cina. È sicuramente un mercato di grandissimo potenziale, poi insomma è anche già stato citato che ci sono addirittura delle aziende europee che hanno investito nelle grosse aziende citate prima, perché Dynasty è partecipata dal gruppo Rémy Cointreau e Chengdu, che è ancora più grosso, che ha il 25% del market share, anche da un nostro associato, non ha sicuramente nessuna intenzione di fare o di agevolare azioni di antidumping, ma si è dimostrato che quando si allarga il mercato a più players, il consumatore si aiuta di più e quindi il consumo aumenta in modo responsabile. Io vorrei però tecnicamente capire anche cos'è sto dumping, nel senso che il dumping a casa mia è quando tu produci sotto costo e vai in un mercato, inondi quel mercato i tuoi prodotti sotto costo, quindi fai saltare i concorrenti, ma non perché tu sei più bravo a tenere i costi o hai un prodotto migliore, perché tu ci stai perdendo e magari ti fai aiutare dallo Stato. Ma qui vorrei capire quali siano i concorrenti. Allora, prima ho fatto una battuta, ci mancherebbe, ho detto non so dove sia il Brunello e la Malone, ma voglio dire con massima ironia, ci mancherebbe, o il Boldò. Però vorrei capire con Daniele Barbone, che ci ha raggiunto in collegamento, ci ascoltava prima, è l'amministratore delegato di Domus Italia, se ho ben capito, che vuol dire 1 milione di euro di export in Cina su 70 milioni di euro complessivi. Non sono tantissimo. Buonasera intanto Barbone, mi sente? Buonasera, sì, la sento. Allora, che dumping facciamo noi in Cina? Cioè rispetto a quali vini cinesi? Adesso sono serio. Perché il dumping è una cosa seria, cioè non è che, a parte che essere accusati di dumping dai cinesi, no, mi viene un esempio troppo osé, non lo faccio, però andiamo avanti. Beh, la situazione dal nostro punto di vista già è complessa, perché la nostra società ad esempio è un mero distributore di prodotti, quindi quella è la nostra missione, la nostra attività. Io voglio fare solo un esempio, indichiamo un prodotto qualsiasi che parta nel settore vino dall'Italia e facciamo conto che parta a 100 unità di prezzo dall'Italia, quindi dalla cantina parte a 100 unità di prezzo. 100 euro. Già oggi, quindi 100 euro piuttosto che 10 euro. Diciamo 10 che ci avviciniamo di più. Prendiamo 10 euro. Nel momento in cui è arrivato in Cina ed è stato sdoganato ed è pronto per essere introdotto in commercio, quel prodotto, se è partito a 10 unità di prezzo, è pronto ad essere venduto, compreso il dazio, compreso la tassa di consumo, compreso la logistica, compresa l'IVA, che è recuperabile solo a certe condizioni sul mercato cinese, esce in commercio a circa 20-21 unità di prezzo. Quindi già oggi siamo in una condizione... Più cioè esce più quello che ci ricarica il ristoratore, immagino. Poi a quel punto c'è l'attività distributiva. Distributiva, certo. E poi successivamente c'è quello che ci ricarica il distributore o la grande distribuzione che ce l'abbia in casa. Allora, no, vorrei dare dei parametri però, perché su questo, allora, in Italia mediamente un vino di fascia media, medio-alta, poniamo che esca dalla cantina a 20 euro, il ricarico finale, cioè quello che costa la bottiglia quando tu vai a tavola, è intorno al 300, in alcuni casi 400%, cioè ti costa 60, 70, 80 euro, ok? Però è il ricarico finale. Lei mi sta dicendo che invece in Cina il prezzo di base da 20 euro passa già a 42 come sul mercato. Poi ci sarà anche lì la distribuzione così, per cui da 42, se tanto mi dà tanto, il 300%, questo vino ti esce a 100 a 120, ho capito bene? E quindi la situazione oggi è quella che riesce a permettere di distribuire con volumi sufficientemente interessanti i prodotti che partono con una fascia di prezzo molto più abbordabile, perché se si parte su prodotti di fascia media, ad esempio, che hanno dei range di prezzo che vanno dai 10 euro in su, è ben evidente che diventano molto poco facilmente commercializzabili quando devono essere introdotti. Barbone, io poi devo tornare da Brivio e Grancia. Mi dica una cosa, ma esiste la concorrenza del vino cinese o no? Perché non vorrei che questa mossa avvantaggiasse poi solo i cileni e gli australiani che... diciamo, esattamente così, avvantaggia i cileni e gli australiani nuovozelandesi, perché hanno addirittura dei regimi di accordi bilaterali che consentono addirittura delle condizioni dal punto di vista dei dati che vengono applicati completamente diverse dalle nostre. No, lo dico perché è vero che i volumi sono ancora relativamente bassi, ma qui stiamo parlando di 250 milioni di cinesi che ormai hanno un reddito pro capite di carattere europeo. Se questi iniziano a bere, poi sarà un problema per noi trovare da bere, ma vorrei, e questo è un problema per chi vi parla, ma dico, ce lo auguriamo tutti, non possiamo iniziare già a perdere quote di mercato in questo modo. Grazie a Daniele Barbone, in bocca al lupo per la sua attività. Ho capito che la concorrenza cinese non c'è, o ha un vino cinese da suggerirmi? Assolutamente nessuno. Bravo Barbone, così mi piace. E vini francesi? Ecco, lì ad esempio nessuno. Bravo. Ma loro hanno anche una grande distribuzione, questo ci mette ancora più in difficoltà. No, grazie. Neozelandesi, è vero che fanno vino, fanno anche un ottimo vino, devo dire la verità. Traffico, poi torniamo da Enrico Brivio, perché mi scrivono molti ascoltatori che la Germania con la Cina ha fatto un accordo, si fa produrre i pannelli in Cina e trasferisce tecnologia. Mamma mia, come sono italiani delle volte, tedeschi. così l'asse, sto creando un asse Pechino-Berlino, mi mette un po' di paura, e poi sentire con Lamberto Gancia invece che cosa rischiamo di perdere in questa occasione. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Focus Economia. Allora, in pochi minuti, perché poi dobbiamo parlare di Giappone, è sempre lì stiamo, Lamberto Gancia, rischiamo più sul futuro che sul presente con queste cifre? Beh, è chiaro che rischiamo più sul futuro, però quello che vorrei chiarire è che quando parte un'azione antidumping di questo tipo è perché pensano che la comunità europea con la nuova OCM vino, le azioni promozionali siano sul prezzo. In verità noi non stiamo usando azioni sul prezzo, ma stiamo usando azioni sulla promozione, sull'educazione, sulle degustazioni, che anzi vanno a creare business anche per i cinesi. Dall'altra parte c'è un grosso mercato diffuso, come sapete dall'Europa comprano per tagliarlo anche nei loro vini, quindi se farebbero dei mali anche da soli nel andare a mettere dazi su vini di importazione. Quindi noi siamo abbastanza tranquilli che questo sia un problema che può essere molto ben gestito, spiegando anche come le imprese utilizzano le risorse per fare educazione e promozione. Il vino europeo sta avendo un grande successo, soprattutto perché, come sapete, c'è un problema di sicurezza alimentare e tutti i prodotti importati rappresentano... Sì, guardi, i cinesi sono come le banche europee non si fidano tra di loro, no? I cinesi non si fidano di quello che producono nel settore alimentare, cioè come hanno un po' di soldi, se mi passa il paragone... così apro anche il fronte bancario, non si fidano di quello che producono, abbiamo visto dei casi eclatanti, per cui quando acquisiscono un po' di potere d'acquisto cercano prodotti alimentari e anche il vino europei e su questo posso fare una critica, però posso fare una critica nel salutare ai produttori italiani, che non c'entra niente col dumping. Ci sono mossi un po' tardi sulla Cina, perché siamo quinti, bisognava fare un po' più di massa critica, ma questo è tema per un'altra puntata. Ho veramente pochissimo tempo, Gancia, se vuole concludere con una battuta. Sì, certo, prego. Ci diamo da fare, abbiamo già vinto una situazione simile in Brasile e dobbiamo stare attenti, giustamente come è stato detto, di non lasciare spazio agli italiani, ai sudamericani, ai sudafricani e ai cileni, che hanno un accordo bilaterale molto importante. Dimenticavo Sudafrica, ma lei ha ragione. Esatto. E col Brasile abbiamo rischiato lo stesso. Enrico Brivio, in un minuto, perché poi devo passare al Giappone. È pensabile che se va avanti, noi ci auguriamo di no, questo scontro, poi a quel punto ritorsioni chiamino ritorsioni. Molti ascoltatori dicono, beh, se fanno così, a questo punto iniziamo a mettere anche noi dazi sui prodotti cinesi. C'è l'accordo della WTO, però... Sì, il rischio c'è perché vediamo che appunto da una questione di un ambito relativo ai pannelli solari si è passata a tutt'altra cosa, una ritorsione cinese che, sebbene legato a una denuncia precedente, va a colpire il vino. Va detto che comunque spetta alla Commissione europea decidere come muoversi, perché anche in questo caso c'erano stati 18 paesi che avevano espresso riserve, tra cui la Germania. E quindi si era fatta questa scelta appunto di imporre un dazio piuttosto basso per 2 mesi e cercare di andare a un negoziato con la mannaia poi di un dazio più alto del 40% che sarebbe scattato tra 2 mesi. Vedremo se in questi giorni si riesce a intensificare un negoziato che eviti una vera guerra. Ha ragione anche l'ascoltatore quando dice attenzione, poi noi con gli incentivi che poi ci caricano in bolletta, ce l'ha spiegato bene il presidente dell'Autority dell'Energia. Il costo è calato, ma la bolletta è aumentata per gli incentivi che diamo al fotovoltaico. In questo modo finanziamo l'acquisto di pannelli anche cinesi. Certo. Allora io dico, giusto, però era il caso che si muovessero anche i produttori italiani. Cioè, noi mettiamo un mercato più concorrenziale, però iniziamo a produrre pannelli anche noi. Così non li compriamo dalla Germania, che a sua volta li fa fare dalla Cina vendendogli tecnologia. Se volete sapere come finisce la partita di giro, grazie a oltre che a Lamberto Gancia anche a Enrico Brivio. Vi anticipo che a luglio lo ascolterete di più, perché prenderà il posto di chi vi parla per alcuni giorni nel condurre Focus Economia. E andiamo invece in Giappone. A Allora, in Giappone, Stefano Carrer, corrispondente del 24 da Tokyo. Ti ho fatto fare notte, Stefano, scusami, buonasera innanzitutto. Sì, buonasera a tutti. Ecco. Sì, no, ma ho appena fatto un collegamento con il Senato, dove c'è un convegno proprio sulla Benomics, che era già programmato cioè, da non tempo. Non c'è niente di meglio da fare che le notte, fai il collegamento col Senato. Come stai messo, Stefano? Vabbè, dai, e pensavo che a Tokyo invece ci fosse una bella vita. Facciamo una cosa, per darti tempo di spiegare cosa è successo oggi sui mercati e cos'è anche la Benomics, cioè che prende il nome da Shinzo Abe, il premier giapponese. Oggi, diciamo... presentata in pompa magna, ti do appuntamento tra un minuto, tu ricollegati col Senato e noi ci risentiamo alle 18:07. Focus Economia. :08 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Stefano Carrer, da Tokyo, scollegati dal Senato italiano, non ti perdi niente. Pronto? Sì, sì, pronto. Ecco. No, adesso sono qui. Sei tutto nostro. No, allora, segnalavo questo convegno anche a Rob per dire che anche in Italia c'è un'attenzione forte verso la Beconomia. La Beconomia, quindi... sì. Che si muove su vari paletti, come abbiamo raccontato, ossia aumento della liquidità, si stampa moneta, si stampano yen, grandi opere pubbliche, c'era l'altro paletto sul privato, maggiore concorrenza nel settore privato. Dall'Ab Economics qualcuno adesso parla di Abegeddon, titolando rispetto a Armageddon, perché insomma, la borsa di Tokyo, che moltissimo era cresciuta da inizio anno e in un anno, dal 22 maggio 2013 ha fatto più 50%, però adesso, da inizio anno, scusatemi, il 22 maggio ha fatto più 50%, dal 22 maggio a ieri ha fatto un meno 13, diventerà anche un meno 14,5 con oggi. Come mai questa disaffezione per essere buoni? Ma a dire la verità io non sarei al momento così pessimista, nel senso è successo questo, oggi Abe ha parlato a mezzogiorno e mezza annunciando questo piano di riforme per un rilancio sostenibile dell'economia, la borsa ha chiuso sì in ribasso del 3,8%, ma perché? Io non mi sono stupito, ma non perché abbia doti di chiaroveggenza particolari, ma perché c'è una cosa ovvia, si erano create enormi aspettative su questo discorso, ma è ovvio che Abe non avrebbe potuto introdurre delle novità particolari, delle sorprese come le aveva introdotte il governatore della Banca Centrale il 4 aprile quando aveva annunciato la politica monetaria superiore a ogni aspettativa nella sua iperespansività. Perché? Perché il mese prossimo ci sono delle elezioni in Giappone, sono elezioni per il rinnovo parziale della Camera Alta, dove Abe dovrebbe conquistare la maggioranza assoluta che poi gli permetterebbe poi di varare appunto queste riforme incisive. Allora non si può chiedere a nessun primo ministro, a nessun insomma governante di annunciare tipo non so radicali riforme del mercato del lavoro a un mese dalle elezioni. Quindi gli analisti che oggi dicono però non ha introdotto la liberalizzazione del mercato del lavoro, beh insomma sarebbe stato suicida dal suo punto di vista, no? Meglio che non l'abbia fatto se ne avesse in intenzione, insomma, perché prima deve vincere le elezioni e poi questo è comprensibile. Devo solo dare una risposta per alcuni ascoltatori che pensano che l'Ab Economics, io non sto dicendo che sia la ricetta per tutti i mali, sia fatta solo per creare una grandissima bolla. Allora il rischio c'è, quando tu stampi moneta e spendi soldi per opere pubbliche il rischio c'è, ma l'Ab Economics come altra componente, Stefano, ha anche un insieme di riforme che vanno dal mercato del lavoro, il fisco per le imprese e poi le liberalizzazioni sui farmaci da banco, la creazione di zone economiche sperimentali dove vi sarà un vantaggio fiscale a produrre, deregolamentazioni, c'è maggiore concorrenza tra i settori, no, non è solo la parte di stampaggio di yen e opere infrastrutturali. Sì, assolutamente, vi faccio appunto solo un esempio, l'Italia proprio si era opposta all'avvio di trattative per un accordo di libero scambio col Giappone, che sono iniziate qualche settimana fa, proprio perché il governo italiano ha detto: ma noi non crediamo assolutamente che il Giappone faccia una deregulation, ci sono delle barriere non tariffarie forti in Giappone che ostacolano i commerci e gli investimenti, e secondo noi il Giappone è geneticamente predisposto a mantenere questi ostacoli non tariffari, perché i dazi qui sono molto bassi. Oggi invece Abe ha promesso esplicitamente una deregulation di vari settori, ha promesso zone economiche speciali a misura di investitore straniero, perché ha detto che vuole raddoppiare gli investimenti esteri in Giappone entro il 2020. Quindi, diciamo, a livello di dichiarazioni, insomma, cose che magari non sono rivoluzionarie in altri paesi, ma in Giappone appaiono abbastanza rivoluzionarie. Oddio, in questo paese qualche liberalizzazione in più si potrebbe fare, ma insomma. Siamo d'accordo, però se ho ben capito la tua lettura, attenzione, infatti lui parla di terza freccia, dice Abe, perché la prima è la leva monetaria, stampa moneta, tassi di interesse bassi, la seconda è stimoli fiscali, che vuol dire deficit, e la terza è appunto meno pressione fiscale da un lato, e poi anche riforma del mercato del lavoro, maggiore concorrenza e liberalizzazioni. Se ho ben capito il tuo ragionamento, dici: delusione della borsa, che molto era cresciuta perché non le ha varate subito, ma attenzione, fra un mese si vota. Sì, però vota... ecco, devo dire che in effetti un rischio sui mercati c'è, nel senso che ci sono dei grandi fondi che hanno speculato al rialzo, quindi facendo portare la borsa di Tokyo addirittura da metà novembre in rialzo dell'80%, poi adesso c'è questa correzione, questa volatilità che ha corretto appunto circa un 18% dal 23 maggio, ma adesso sentendo anche qualche analista pessimista, cosa sta succedendo? Che non dimentichiamoci che in passato dei grandi fondi speculativi hanno cercato di shortare i bond giapponesi e in questo nuovo contesto in cui la banca centrale sta facendo questa operazione veramente poco ortodossa, cioè stampare moneta per generare inflazione al fine di creare la crescita economica, cosa che non è mai successa, perché di solito l'inflazione si avviene ma lì venivano da 10 anni di crescita economica, certo. No? Ecco. Quindi in questa nuova situazione probabilmente certi grandi fondi speculativi potrebbero tentare di forzare la mano, e quindi, diciamo, sarà un'estate sicuramente volatile, probabilmente un autunno caldo. Oh, estate volatile, autunno caldo, fermiamoci qua, l'inverno glaciale a questo punto sul Giappone. Però Stefano, ho capito benissimo, perché a parte il fatto che, come tu ricordavi, attenzione, il Giappone viene da più di 10 anni di stagnazione economica, zero inflazione e zero crescita, per cui dice: proviamo a mettere un po' di inflazione, vediamo se questo ci porta poi a un po' di crescita economica. Grazie a Stefano Carrer in collegamento, e grazie soprattutto per la disponibilità visto l'orario in Giappone. Che ore sono, che non riesco a fare il calcolo a mente? Ma credo che sia l'una e un quarto, così, ma non c'è problema. Adesso esci tanto, vabbè, ok. Devo ancora finire il pezzo per il giornale di domani. Vabbè, allora esci poco. Grazie a Stefano Carrera in collegamento con noi da Tokyo. La borsa ve la faccio io oggi, accontentatevi, nel senso che poi abbiamo anche altri temi, meno 0,96%, borse volatili resteranno così da quello che vediamo fino a venerdì, perché, o meglio, domani la Banca Centrale Europea farà sapere cosa farà sui tassi, ma poi soprattutto la Federal Reserve, e venerdì, dicevo, i dati sul mercato del lavoro americano. Monte dei Paschi, oggi riunione della fondazione per approvare le modifiche allo statuto, bene il titolo, più 4,40%, Fiat più 1,70%, bene, anche qui continua a giocare a livello positivo l'integrazione con Chrysler. Bene anche Ansaldo STS più 1,40, Finmeccanica più 1,15, ma qui abituiamoci alle altalene finché il governo non decide cosa fare dei vertici di Finmeccanica e delle sue controllate. A2A più 1%, Buzzi Unice più 0,60, Atlantia più 0,60 anch'essa, Unicredit più 0,50 come Azimut. Fronte opposto invece, Popolare Emilia Romagna meno 3,1, Mediolanum meno 2,80, Pop Milano meno 2,60, Diassori meno 2 come Banco Popolare e Luxottica, Eni meno 1,80 come Enel e Snam Rete Gas, Intesa meno 1,60 come Exor e Fondieri Assai, l'1,5 l'ha perso Parmalat, cito Pirelli perché dopo insomma, la separazione oggi perde l'1,23% dall'azionista Malacalza in Camfin. Camfin si sta allineando al prezzo dell'OPA, cioè 0,80 centesimi, oggi ha perso il 7,36% in borsa, e il miglior titolo è Zucchi più 11,26, il peggiore Molecular Medicine meno 8%. Andiamo verso le piavole. Tecnico mi fa gli scherzi. Traffico, e poi parliamo con il direttore del Centro Studi Confindustria del rapporto di oggi, in cui il paese ha perso il 15% del suo potenziale manifatturiero. Focus Economia. 18 e 19 minuti, di nuovo in diretta per l'ultima parte di Focus Economia con Sebastiano Barisoni. Allora, dicevo, presentato oggi il rapporto sugli scenari industriali del Centro Studi Confindustria. Eh sì, i dati sono quelli di un bollettino di guerra, lo dico con massimo rispetto. Nel periodo 2009-2012 55.000 imprese manifatturiere, stiamo parlando solo di chi fa manifattura, di chi produce beni, chiuse, che significa 40 imprese manifatturiere al giorno, e come già ricordava i nostri GR, dice il Centro Studi Confindustria, è stato distrutto il 15% del potenziale manifatturiero, cioè 100 imprese, 15 sono scomparse, 540.000 posti di lavoro in meno, e il rischio fortissimo che questa cifra vada a lievitare in tutto il 2013. E poi il tema delle banche, perché insomma la stessa Centro Studi Confindustria ricorda come il credit crunch minacci sempre di più le imprese. Nel marzo 2013 lo stock di prestiti era inferiore del 5,5% a settembre del 2011, cioè 50 miliardi di euro in meno prestati alle imprese. Questo lo dice oggi anche Standard & Poor's, che una fotografia sull'Italia, dice nel 2012 le banche hanno tagliato 44 miliardi di prestiti alle imprese. 44 miliardi, insomma la cifra è quella, 44, 50 già nel 2013. Ne parliamo con, come sempre facciamo in questi casi, con il direttore del Centro Studi Confindustria, Luca Paolazzi. Buonasera. Buonasera a tutti. Luca, ti do il tu perché sei stato collega e ospite nostro per anni. Io spero un giorno di invitarti e così e festeggiare qualcosa, perché ormai sta diventando un bollettino di guerra, come ricordavo. Anche se nel vostro rapporto di oggi un elemento positivo c'è, e poi ci arriviamo. Dicevo, il dato del 15% sul potenziale manifatturiero, per essere proprio precisi, quando voi dite che è distrutto, vuol dire che in questo momento non sta producendo o che ce lo siamo mangiato definitivamente? Ma, vuol dire che si tratta di imprese o fabbriche chiuse, quindi riaprirle e riavviarle è un po' complicato, dire che rispetto, diciamo, a con un ritorno di domanda non è sufficiente a tornare ai livelli di produzione pre-crisi, perché in realtà bisognerebbe riattivare appunto impianti e attività che sono state, diciamo, ridotte. È un dato che viene, è una stima ovviamente che viene dal rapporto fra l'andamento dell'attività produttiva e l'utilizzo della capacità produttiva denunciata dalle imprese stesse. Quindi se un'impresa aveva due impianti e produceva al 100%, la produzione è scesa del 60%, adesso ne ha chiuso uno, utilizza il suo impianto all'80%, perché questo, certo. Però vuol dire che nel frattempo ha chiuso un impianto, puoi riaprirlo, non è detto che non si debba riaprire, però di solito sono problemi questi, perché significa fare investimento, aggiornamento, delle tecnologie, rimettere in moto, trovare persone, assumere che siano qualificate, insomma, il motore che si ferma non è un motore che si rimette in moto così facilmente. No, delle volte non si rimette in moto proprio. C'è l'altro tema grosso che riguarda i prestiti delle banche, il credit crunch. Allora, su questo ne abbiamo parlato molte volte anche con i banchieri. i quali dicono: attenzione, adesso fammi difendere i banchieri, abbiamo delle sofferenze record, cioè dei prestiti incagliati che forse non riusciremo a rivedere da record, abbiamo anche una difficoltà a finanziare alcuni progetti perché gli imprenditori delle volte ci chiedono soldi più che altro per le spese correnti, per pagare i fornitori, gli stipendi, non per progetti di investimento. Su questo però tu avevi fatto notare, se non ricordo male, come al netto di tutte queste variabili, che pure ci sono, per carità, le banche quando vedono le sofferenze aumentare devono ricordarsi che gestiscono i risparmi degli italiani. Aggiungo che però è anche troppo facile depositare i soldi durante la notte alla BCE e poi riprenderli la mattina. Però tu avevi fatto un calcolo per cui al netto di questo comunque il prestito è più basso di quanto è il contributo del PIL. Semplicemente questo è un circolo vizioso che va spezzato, perché le sofferenze aumentano perché c'è la recessione, ma la recessione è stata causata dal credit crunch. La stessa Banca d'Italia, che per tanto tempo ha detto no, non c'è una restrizione del credito, la domanda che scende, nella relazione considerazioni finali lette dal governatore venerdì scorso, ha detto che l'anno scorso il credit crunch ha contribuito per 2 punti alla caduta del PIL, e ha aggiunto che in questa fase anche le imprese finanziariamente sane vengono razionate nel credito. Allora, se non si rompe questa spirale non si va da nessuna parte, perché le banche dicono che aumentano le sofferenze, ci erode il capitale, non abbiamo possibilità di fare prestito, però lo negano anche le imprese sane, e dall'altro lato hai diciamo un'economia che non può ripartire se non gli viene dato ossigeno. Quindi non si può ragionare in questi termini, insomma. Se no, dici, non si esce che siamo più tutti nella stessa barca, ma io, la mia impressione è che diciamo il motore primo di questa cosa è stato il credit crunch. È la mia impressione, la nostra idea, la nostra diciamo spiegazione è stata questa. Quindi da lì bisogna ripartire, per questo sono importanti iniezioni di liquidità attraverso i pagamenti della pubblica amministrazione. Secondo noi quello che è stato stanziato è una buona cifra, ma non è assolutamente sufficiente, e bisognerebbe fare di più su quel fronte, visto che da quel lato abbiamo un via libera anche dell'Unione da parte Europea. Delle autorità europee. Ecco, questo per commentare anche la notizia di oggi su, da un lato, il disegno di legge che passerà attorno di nuovo alla Camera, che prevede anche la possibilità di anticipare tutti i crediti, ma comunque la cifra dei 20 miliardi. Voi da questo che tipo di spinta vi attendete sul PIL italiano, a questo punto, soprattutto sull'anno prossimo? Ma noi avevamo stimato a gennaio che ci fossero stati pagati subito nel 2013 48 miliardi di euro di arretrati, e avremmo avuto 1,5 punti di PIL nell'arco di 3 anni in più. Che può sembrare non una grandissima cifra, ma ricordiamo che non sono soldi che vengono spesi dalla pubblica amministrazione, quindi domanda aggiuntiva, ma sono soldi che vengono dati, certo, come dire, ridati indietro alle imprese che li hanno anticipati, e quindi loro poi devono decidere che farne, e probabilmente riducono la loro esposizione bancaria, verso le banche, certo. Questo migliora il loro rating, aumentano la loro liquidità, e quindi diciamo hanno maggiori possibilità anche di fare investimenti. Noi riteniamo che questo sia fondamentale, appunto, come dicevo prima, per fermare la spirale credit crunch, senza la quale non si riparte. Io vorrei dire una sola cosa riguardo a quello che tu hai detto all'inizio, cioè la distruzione di potenziale produttivo. Quello che abbiamo affermato con forza oggi nel seminario è che dobbiamo pensare al manifatturiero come a un'opera d'arte, qualcosa che ci è stato consegnata come saper fare attraverso l'accumulazione di conoscenze nel corso del tempo. Ci sono voluti, diciamo, grosso modo un secolo e mezzo di industrializzazione del paese per arrivare dove siamo. Dobbiamo averne cura come se fosse un monumento storico, come se fosse il Colosseo, la Reggia di Caserta, Pompei. Certo, uno potrebbe dire che neanche questi ne abbiamo molto cura. Si sta per farti la battuta. Però è vero che quando diciamo c'è notizia di cronaca sulla Reggia di Caserta, su Pompei o sul Colosseo, appunto tutti si scandalizzano. Se chiudono delle fabbriche, nessuno dice niente, e questo invece è molto grave. Tornare a essere manifatturieri nella testa, nella mentalità, nella cultura. Grazie a Luca Paolazzi, direttore del Centro Studi Confindustria, in bocca al lupo. Poi torneremo a parlare di questi temi anche venerdì da Santa Margherita Ligure, dove appunto si tiene come ogni anno il convegno da 2 giorni dei giovani imprenditori di Confindustria. Grazie Luca. Grazie a voi. È d'accordissimo che quando si parla di distruzione di un'impresa e soprattutto di un distretto non si distrugge solo produzione economica, si distrugge cultura, conoscenza, anche coesione sociale, perché diciamolo tutta, lo sviluppo della piccola e media impresa da noi in questi 30 anni ha permesso anche una distribuzione di ricchezza in buona parte del territorio di questo paese. È vero, ci mancano le grandissime imprese, ma abbiamo avuto un capitalismo un po' più diffuso e a mio avviso anche un po' più equo delle volte. E noi ci risentiamo domani. Da Sebastiano Barisoni, l'auguro di una buona serata. Focus Economia torna dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.